Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Ciao Italia! Siete pronti? Bene, anch'io. Siete già caldi? Bene, anch'io. Are you ready? Allora, andiamo! Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 9 agosto. Siete pronti? Anch'io per una nuova puntata di Agosto, tecniche di sopravvivenza, la prima puntata della seconda settimana del programma che sarà con voi per tutto il mese di agosto, perché l'abbiamo già detto varie volte, il mese di agosto sembra il mese più bello dell'anno, ma in realtà spesso è un tunnel dal quale cercare di uscire senza farsi troppo del male. Ma noi siamo qua con voi e cercheremo di portarvi fuori da questo tunnel, senza appunto che vi facciate del male. E di che cosa parliamo oggi? Come ha detto Madonna, siete caldi? Anch'io. Oggi si parla del caldo, anche se a giudicare da come sono vestita io stamattina probabilmente non è molto caldo, ho una sciarpa, ma fare i conti con il caldo vuol dire fare i conti anche con le aree condizionate degli uffici, per esempio. Ma ci occupiamo del caldo, come abbiamo detto, quindi quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza? Quindi oggi a agosto tecniche di sopravvivenza si parlerà del clima, non perché non ci siano altri argomenti più interessanti o perché, come in un libro di Jane Austen, sia sconveniente per una signorina parlare di qualcos'altro. Però quando si parla di caldo, quando si parla di estate, è bene avere delle tecniche di sopravvivenza e quindi vediamo che cosa si può fare con il caldo. Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono! E per forza! Tu ti sei mai visto nello specchio? Vero Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo! Ah, perché tu no! E che c'entri? Io ci ho voluto io! Intanto, mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia! E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo! Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eppure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Un freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal caldo. Andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo sento? No, a Milano non può fare caldo. A Milano non può fare caldo. Beh, effettivamente, in realtà può fare molto caldo in città, può fare molto caldo al mare, in montagna, ovunque voi siate. Il caldo è uno dei motivi per cui bisogna avere delle tecniche di sopravvivenza e noi oggi, ad agosto, tecniche di sopravvivenza, cercheremo di capire come fare. Ma scriveteci i vostri sms al 349-238-6666 o chiamateci in diretta per raccontarci le vostre esperienze con il caldo di quest'estate, magari di qualche estate fa, all'800-24-0024. Ma probabilmente, se non è adesso proprio, perché effettivamente le temperature si sono un po' abbassate, però magari luglio scorso, qualche giorno fa, vi sarete ritrovate in queste situazioni. Dormi da giorni sul pavimento della cucina con i piedi nel frigorifero aperto. Peccato solo per l'odore di cipolla e per la luce che disturba un po'. È così caldo che non devi più cucinare. La carne si prepara da sola per autocombustione. Ormai non sudi più. Piovi. Hai così tanti ventilatori accesi in casa che quando esci per andare in ufficio hai bisogno di passare dal parrucchiere. Ti sei riempito una fiaschetta di ghiaccio da portare sotto al collo, stile San Bernardo. Non hai mai desiderato tanto come in questi giorni i piedi freddi di tua moglie. Peccato che anche lei in questa stagione ne sia sprovvista. Ecco, è estate e dovrebbe fare caldo, ma in realtà non bisogna nemmeno lamentarsi, perché l'estate deve essere calda, magari non caldissima quando si raggiungono temperature allucinanti, però l'estate deve essere calda. Per esempio, alcuni dati del CNR, tanto per confortarci un pochino sulle temperature. In climatologia gli anni si misurano da dicembre a novembre, quindi per il 2010 non abbiamo ancora grossi numeri da darvi, anche se il luglio scorso è stato uno dei più caldi degli ultimi decenni. Ma per esempio il 2009 si posiziona al quinto posto tra gli anni più caldi degli ultimi due secoli in Italia, e la top 5 delle temperature degli ultimi due secoli è 2003, 2001, al terzo posto 2007, poi c'è il 1994 e poi appunto il 2009. Io non so se voi ve la ricordate l'estate del 2003, io me la ricordo molto bene. forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. But you know that you're hot in the city tonight. Tonight, alright. Hot in the city tonight. Train when I'm hit the ball. You lay right down now. I don't ride until your head breaks. I'm a walk until my brain pops. I'm a move with the beat now. I'm a train when I'm hit the ball. I'm really feeling heat now. New York. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi lunedì 9 agosto stiamo parlando del caldo, quindi delle vostre tecniche di sopravvivenza per il caldo. Scriveteci i vostri messaggi al 349-238-6666 o chiamate in diretta all'800 24 0024 per raccontarci le vostre esperienze, magari appunto di quest'estate o dell'estate precedenti. Come fate a sopravvivere al caldo? Come riuscite ad uscire senza farvi troppo del male dal caldo di agosto o comunque dal caldo dell'estate? Magari facciamo così, perché non ci mandate in tempo reale le temperature delle vostre città? Così facciamo un quadro di questo stivale bollente, più o meno bollente, magari si è già un po' intiepidito, visto che, come dicevo prima, a giudicare da come sono vestita io, non è più un'estate calda, non è più una hot in the city, come ci ricordavamo probabilmente a luglio. Quindi scrivete i vostri messaggi al 349-238-6666 o chiamate all'800-24-0024. Daniele da Bologna mi scrive: io purtroppo ho una casa molto calda. Sì, scrivetemi cosa sta succedendo nelle vostre case, nei vostri uffici, insomma qual è la vostra temperatura, magari la temperatura quella reale o la temperatura percepita, cosa sentite sulla pelle o cosa sentite sui vostri nervi, perché tante volte anche psicologicamente è difficile sopportare il caldo, che magari non è proprio il caldo caldo, ma noi lo sentiamo caldo. Quindi raccontatemi le vostre esperienze, ma anche se avete magari dei proverbi, non lo so, dei detti particolari a casa vostra, nel vostro paese, qualcosa che ha a che fare con il tempo, perché abbiamo detto oggi si parla di tempo. Tempo e intrattenimento, una sorta di meteotainment oggi ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Ma quando si parla di caldo si pensa subito al deserto e noi abbiamo deciso di parlarne con chi di deserto se ne intende, per capire se ci sono delle tecniche di sopravvivenza particolari per chi spesso si trova alle alte temperature. E quindi abbiamo con noi la signora dei deserti, l'esploratrice Carla Perrotti. Buongiorno Carla. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, noi abbiamo pensato di chiedere a lei, visto che lei ha attraversato molti deserti e quindi le sarà capitato chiaramente di fare proprio l'esperienza in prima persona, di sviluppare delle tecniche per sopravvivere al caldo. Ma guardi, nei deserti ho trovato le temperature incredibili, quindi caldo 55-60 gradi alcune volte, come ho trovato anche dei freddi intensi di notte, quindi questi sbalzi termici che ovviamente procurano dei problemi. Dire quali sono le tecniche per difendersi dal caldo, vabbè, non è facile, considerato anche però che il caldo del deserto è un caldo molto secco, quindi si soffre meno rispetto al caldo delle nostre città. Giusto. Di luglio-agosto. Sicuramente una temperatura più gestibile in quel senso, anche se, ripeto, sono temperature molto alte. Quello che io in genere faccio per difendermi, cos'è? Coprirmi, quindi soprattutto per difendermi da sole, quindi lo sheesh in testa, che è preziosissimo, questo lungo velo di 6 metri di cotone che mi avvolgo intorno al capo, che mi aiuta a mantenere un minimo di umidità fra naso e bocca e proteggermi appunto dal caldo e dal sole. Certo. Quando è possibile, nelle soste a metà giornata, quando appunto le temperature sono talmente alte per cui è impossibile camminare, cerco di attrezzarmi in un, magari con un piccolo tendalino piuttosto che in un luogo d'ombra se è possibile trovarlo, riparo di cespugli, da cespugli. Certo il caldo è caldo, insomma. Io lo amo, preferisco il caldo al freddo, quindi lo gestisco con maggiore facilità rispetto al freddo, però sono sicuramente situazioni che vanno, soprattutto credo nelle nostre città, valutate con attenzione, perché se non si sta attenti si possono avere anche dei problemi, dei danni. E certo, ma come le è venuta questa voglia di deserto? Da dove nasce? Ma il deserto è un amore che è scoppiato tanti anni fa, nel 91, quando per la prima volta appunto ho attraversato con i Tuareg, ho seguito la carovana del sale, ho attraversato una parte del Teneré, è un amore che non si è ancora interrotto, che non è ancora finito, perché io, nonostante le mie imprese siano terminate ufficialmente nel 2008, quando ho accompagnato un maratoneta cieco, Fabio Pasinetti, a attraversare una parte del deserto bianco in Egitto, ecco, da quel momento in poi ho continuato ad andare nel deserto, perché quando l'amore è così forte non si può più starne lontano. Giusto. Ma che cos'è questa Desert Therapy? Ma Desert Therapy è nata, un'idea che è nata proprio camminando con Fabio, quando mi sono resa conto che, avendo condiviso per la prima volta un deserto, chi era con me, nonostante non l'avesse potuto vedere, ne aveva assorbito questi benefici incredibili. Ho detto, ma se è successo a lui che non l'ha visto, potrà succedere ad altri. Da lì è nata l'idea di accompagnare dei piccoli gruppi di persone con me nel deserto. Non è nulla di importante a livello fisico, cioè non sono imprese, si cammina solo qualche ora al giorno al mattino, è tutto molto protetto, con campi tendati, ma per far vivere queste emozioni, quindi senza macchine, senza rumori, solo con una piccola carovana di cammelli, e devo dire che le persone che sono venute sono completamente cambiate, cioè la loro vita è cambiata dopo questa esperienza. E certo, perché c'è un modo di rivedere anche la propria storia personale, facendo uno sforzo così fisico magari, si ripercorre un po' anche il proprio equilibrio anima e corpo. Non so cosa succede, qualcosa succede, ma succede subito, quindi intanto si creano delle amicizie profonde, dei legami molto forti fra chi è venuto, ha fatto questa esperienza, l'ha condivisa, e poi proprio il cervello entra in una fase completamente diversa. Io dico sempre, come resettare tutto, nel momento in cui si entra nel deserto, dopo poche ore si lascia alle spalle ogni problema, ogni preoccupazione, e si vive con grande serenità quel periodo, con una disponibilità, con un atteggiamento positivo che poi si riporta a casa. Ecco, la cosa interessante è che si riporta a casa e funziona anche a distanza di mesi nel quotidiano. Certo, ma per iscriversi, per fare questa esperienza con lei, come possiamo fare? Come ci si deve comportare? Sul suo sito troviamo qualcosa? Sì, sul sito ci sono certo tutte le indicazioni, poi potete contattarmi direttamente sempre attraverso il sito, che poi è carlaperotti.com. Certo. Quindi, non trattandosi di un'iniziativa commerciale, diciamo c'è un rapporto diretto con le persone, voglio conoscerle, capire se sono adatte per questo tipo di esperienza. Perfetto, perfetto. Grazie mille, anche perché tutte le sue imprese le possiamo trovare sui libri che lei ha scritto, Deserti e Silenzi di Sabbia, editi da Corbaccio, e quindi magari farci un'idea un po' di più di quello che è stata la sua esperienza nei deserti. Ma sicuramente sì, vi aspetto tutti nei deserti. Fantastico, grazie mille e buona estate. Sì, anche a voi buona estate, e mi raccomando col caldo. Grazie. Arrivederci. Le mie reazioni. stanno arrivando le vostre temperature. Roverbella Mantova 26 gradi, Luca, Parma 22, Roberto, Como in casa 24 gradi, si sta benissimo, Claudia. Invece William mi dice: ho comprato un condizionatore quando faceva un caldo torrido per sopravvivere, tempo due giorni sono arrivate le perturbazioni, mamma mia che tristezza. Sì, oggi a Tecniche di Sopravvivenza si parla di caldo, di come sopravvivere al caldo, quindi scriveteci i vostri sms al 349-238-6666 o chiamateci all'800 24 0024. Ma noi abbiamo deciso oggi, un po' in controtendenza, di non parlare di che cosa si deve mangiare, di quali abiti bisogna indossare, di quanto bisogna bere quando fa caldo. Ma abbiamo pensato di così tirare fuori dal cilindro un oggetto che potrebbe sembrare caduto in disuso, ma che può sempre tornare utile. Ed è il femminilissimo ventaglio. E, insomma, magari il controaltare dell'unisex condizionatore, dell'aria condizionata che abbiamo tutti. Ecco, il ventaglio, diciamo così, può anche servire non solo per farsi aria e quindi togliersi le gocce di sudore che imperlano il nostro naso, e nel mio caso è anche una cosa piuttosto importante, ma può servire anche per dare dei segnali, quindi non solo farsi aria e quindi sventagliare, ma anche dare dei segnali all'altro. Eh sì, perché il ventaglio, per esempio, nel 700 e nell'800, lo sventagliare, l'éventer, non so se si dica così, era addirittura disciplinato da un codice ad uso e consumo delle nobili donne, perché in base a come lo si teneva aperto, come lo si faceva sventagliare, appunto, voleva dire qualcosa. E così abbiamo pensato che di ritirare fuori questo oggetto di seduzione, questo strumento di conquista, insieme al suo alfabeto gestuale, e magari darvi due o tre dritte per non magari essere lì a sventagliarvi e dare delle informazioni sbagliate a chi vi sta di fronte, sapere insomma che cosa state comunicando attraverso il vostro farvi aria, qualcosa che vi può servire appunto in questa estate. Per esempio, appoggiarlo sulla guancia destra significa sì. Appoggiarlo sulla guancia sinistra significa no. Sventagliarsi lentamente significa sono sposata. Sventagliarsi rapidamente significa sono fidanzata. Aperto massimamente ma coprendo la bocca, sono single. Appoggiarsi il ventaglio sulle labbra, baciami. Lasciarlo scivolare sulle guance, ti amo. Avete un ventaglio? Volete raccontarci qualcosa su, non so, messaggi che avete dato anche involontariamente attraverso il vostro ventaglio? I vostri sms al 349-238-6666 oppure chiamateci all'800-24-0024. Quindi quanto siete caldi questa estate? Anche se quando è caldo caldo, ma veramente caldo, come ci voleva far credere una pubblicità, certe idee non vengono nemmeno in mente. Antonio! Fa caldo. Antonio. Fa caldo. Antonio. Fa freddo. Antò? Fa caldo. abbiamo con noi Antò fa caldo. Daniele Cantalupo. Niente in realtà. Di meno che. Ciao Daniele. Buongiorno. Allora, che cosa succede quando fa caldo? È vero che quando fa caldo, come Antò, si dice di no anche ad una donna meravigliosa? Sì. Diciamo che si dice di no. Ok. Senti, ma le tue tecniche di sopravvivenza al caldo, visto che là era una bevanda freschissima e poi appunto tutto andava a buon fine, ma in realtà Daniele Cantalupo, che è Antò fa caldo, che cosa fa quando fa molto caldo? Ma guarda, in questo periodo io sto praticamente morendo, perché stavo girando sotto il sole tutto il giorno, come senti anche dalla moto che passa, che è impossibile. Poi arrivo a casa e mi sono fidanzato con un condizionatore d'aria, però ti fa l'effetto camino, no? Che davanti sei tutto congelato e dietro sudi come una bestia. Oppure anche il ventilatore che ti passa, che fa il giro e poi tu dici aspetta che arriva, che bello fresco, poi boom, va via e di nuovo il caldo e sudi come persona. Senti, ma dopo Antò fa caldo, ma ti è capitato mai che qualcuno ti riconoscesse in giro per strada? Perché è una vecchia pubblicità, però a noi faceva molto ridere, no? Questa cosa che è rimasto proprio nei ricordi. Ma più che qualcuno mi riconoscesse per la strada, sembrerà strano che io lo dica, ma in quel periodo lì io non camminavo per la strada. Infatti io dicevo, non è possibile, cioè la gente mangia pane e televisione. Una volta è venuto un bulgaro, giuro, tutto vero, che mi guarda e dice, non ci posso credere, tu sei Antò fa caldo. E io dicevo, vabbè, lo scherzo, mi guardo in giro così. E questo era un mio fan, e praticamente in sembra che in Bulgaria loro dicevano, cioè, tra i loro amici, per prendere in giro gli italiani, dicessero Antò fa caldo. Fantastico. Altri aneddoti relativamente a questo? O... Ma, guarda, per esempio, allora, le ossessive. C'era questa bambina che io ero in spiaggia, dopo ero rilassato, così. Questa bambina che mi vede e fa Antò fa caldo, Antò fa caldo, Antò fa caldo. Io dicevo, cara bambina, Antò fa caldo, così. E poi a un certo punto mi dice, dai, mi fai Antò fa caldo, che la bambina prende il sole, dai, mi fai Antò fa caldo, mi fai Antò fa caldo. A un certo punto ho detto, vabbè, vado in acqua. Prendo, vado in acqua, vado un po' a largo, dico così, la bambina nuotava benissimo, mi segue, arriva lì e dico, mi fai Antò fa caldo. Allora, finito, ho detto, vabbè, dai, Antò fa caldo. Però lo devi recitare bene, mica si recita così. Senti Daniele, ma cosa stai facendo adesso? Con questo caldo stai girando, mi stavi dicendo? In questo momento sono nel cuore di Milano, che stiamo girando degli spot. E diciamo che il periodo non è proprio quello dei migliori, però mi sa che mi farò un agosto a girare, va bene. Vabbè, capita. Noi, allora ascoltaci, perché noi diamo delle tecniche di sopravvivenza incredibili per chi è rimasto in città. Assolutamente, lo ascolterò sempre. Fantastico, grazie mille Daniele, ciao. Buona giornata. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10 e 31, agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di caldo, le tecniche di sopravvivenza per sopravvivere al caldo in città, al caldo in montagna, al caldo ovunque voi siate. E stanno arrivando anche i vostri messaggi perché abbiamo chiesto di avere le temperature in tempo reale di questa Italia del 9 agosto e ce ne arrivano di incredibili. Allora, odio l'estate col suo caldo, vuoi mettere i profumi di colori dell'autunno e della primavera, evviva il climatizzatore. Per chi asfalta strade o scarica merce dai container, anche le estati fresche sono caldissime. Macchinista in vetreria, caldo bestia pure la notte di Natale, Pietro. Oppure Padova, 27 gradi. Giovanna invece mi scrive, nelle mie superga ci sono 80 gradi. Ecco, quindi dipende appunto da quali sono le temperature che state vivendo in questo momento, in questo lunedì 9 agosto. Ma abbiamo anche una telefonata, abbiamo Antonio da Como. Antonio? Salve, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, io sono nato a Bari e lì da noi fa molto caldo e mi ricordo che ci si vestiva anche in un certo modo e quindi anche l'abbigliamento fa tanto. Certo. Coprirsi la testa, non come vedo io faccio il camionista, sono in giro tutto il giorno e purtroppo spesso e volentieri vedo mamme che portano i bambini senza neanche un cappello in testa nelle ore più calde. E anche le persone anziane, oltre che naturalmente bere molto, soprattutto le persone anziane che non hanno più lo stimolo di quel bisogno di bere, ma anche per gli adulti, bere roba non fredda perché sarebbe controproducente. Chiaro. E poi dopo mangiare molta frutta e molta verdura, ecco, sono cose anche magari anche banali, scontate, poi si vedono famiglie all'assalto di gelati che provocano ulteriore sete e si introducono più calorie logicamente viene più caldo, dico. Certo, però, il gelato però, è un refrigerio momentaneo magari, può servire, sì, può servire, ma è momentaneo, certo. Esattamente, e poi dopo, cioè, i soliti consigli di cercare di non uscire nelle ore più calde se fosse possibile, ma come per esempio io sono qui a Tortona, adesso ci sono 28 gradi e sono costretto a uscire. Eh già. Non posso evitarlo. Ma senti Antonio, ma trasferendoti da Bari a Como, è cambiato qualcosa nella tua percezione della temperatura o in realtà Como-Bari uguale? No, assolutamente sono due luoghi completamente differenti, città di mare, città di lago, quindi diciamo che le temperature sono diverse. Io ho sofferto da piccolo moltissimo il freddo proprio perché ero abituato a temperature molto molto più calde. Chiaro, va bene. Ma adesso stai lavorando, quindi sì? Sì, sono qui a Tortona, ripeto, qua ci sono 28 gradi. 28 gradi, è una bella temperatura. Si sentono tutti. Bene, grazie mille per i tuoi consigli. Ciao Antonio, buona giornata. Ciao. Anche a te, grazie. E andiamo con le notizie vintage. 9 agosto 1930. Betty Boop fa la sua prima apparizione pubblica nel cartone animato Dizzy Dishes. Che caldo per il puritano mondo dell'animazione degli anni 30. 9 agosto 1986. Alla Knebworth House di Knebworth, i Queen eseguono il loro ultimo concerto con Freddie Mercury. Quanto ci manca dal vivo la sua calda voce. 9 agosto 1786. Il medico Michael Packard e il cacciatore di camosci Jacques Balmat stanno scendendo dal Monte Bianco scalato solo il giorno prima, dopo vari tentativi, per la prima volta. Sono rimasti in vetta per poco più di mezz'ora, probabilmente a sufficienza per godere di un po' di refrigerio. E voi dove lo trovate il refrigerio? Salite in vetta pure voi? Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mi hai lasciato. E resto distrutto, disperato ancora un po', ma poi ripartirò. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente. Dieci e 38, siamo ad agosto, tecniche di sopravvivenza, e oggi si sta parlando del caldo, quindi come sopravvivere al caldo. Ci arrivano anche le vostre temperature. Andrea da Udine, 28 gradi, invece Franco da Como dice: cara Morena, sono in un ufficio, clima 20 gradi, dopo luglio in spiaggia, agosto al lavoro. Ma abbiamo anche una telefonata, Franco da Padova. Ciao Franco. Sì, buongiorno. Buongiorno Franco. Quindi volevo, visto, ascoltavo la vostra trasmissione, ho deciso di intervenire perché ho un piccolo problema. Sabato dovrei partire per la Russia, per Mosca. Ah. E quindi non farà molto caldo forse? No, volevo da voi una tecnica di sopravvivenza perché, per capire, no, il discorso è questo: il tour operator non ha ancora rinunciato al viaggio perché nessuno vieta tassativamente di andare a Mosca. Però le condizioni sono quelle che sono, e quindi non so, mi rivolgo a voi per avere un consiglio o per avere qualcosa di più. Oh mio Dio, in questo momento allora mi trovi un po' così, non saprei che cosa dire per andare a Mosca. Io fra l'altro non ci sono neanche mai stata. Allora mi stai chiedendo una tecnica di sopravvivenza per un viaggio che forse ti salta? Raccontami. No, per un viaggio che non si sa se si farà. Vedendo in TV tutte, certo, le persone con le mascherine. Certo. Cioè no, però al di là di questo io volevo capire se c'è qualche organo predisposto a vietare, perché tutti sconsigliano, però nessuno vieta tassativamente, quindi il tour operator se ne fa forza. Certo. E quindi dice partiamo. Allora, io so che c'è un sito di cui abbiamo parlato anche la prima puntata, quando appunto si parlava di informarsi sui paesi lontani dove ci si sta recando. C'è un sito che è fatto dal Ministero degli Esteri e dall'ACI. Adesso purtroppo in questo momento mi sfugge, te lo manderò, te lo dico più tardi, però c'è un sito apposta dove si possono sapere queste, avere queste informazioni. È che oggi si sta parlando di caldo, quando hai detto che andavi in Russia ero tutta pronta a capire cosa mettevi in valigia, mi sembrava divertente. Mi trovi impreparata, la mia tecnica di sopravvivenza in questo momento è dirti te lo dico più tardi qual è il sito, perché oggi stiamo parlando di caldo. Ma tornando a noi, tu che cosa ti porti in valigia se dovessi decidere di partire, per esempio? Beh, magliettine, pantaloncini corti probabilmente e basta, perché non è che ci sia tanto da... Forse a questo punto anche una mascherina. Oh. Eh beh, esatto, potrebbe essere una soluzione. Mi dispiace, non ti so dare altre informazioni, ahimè, sul discorso, la sul discorso Russia. Però grazie comunque per avermi dato la possibilità. Certo, di sul discorso caldo, non so, un ventaglio, un condizionatore, magari magliette di cotone, dipende appunto se partirai per la Russia oppure no. Grazie mille, Franco. Prego, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ecco, ci siamo trovati purtroppo in difficoltà, visto che ci hanno chiesto una cosa che riguardava altro e non riguardava il caldo. Ma più tardi a Franco daremo tutte le informazioni delle quali ha bisogno. Ci arrivano sempre i vostri sms al 349-238-6666. E c'è un signore che dice, una signora credo, non lo so, e dice, quando hai le vampate, credo signora, vedi che usi il ventaglio senza tanti messaggi nascosti. Io ne ho decine sparsi in tutta la casa, perché abbiamo parlato prima di ventagli, quindi di un modo per curarsi del caldo e cercare di farsi un po' di aria attraverso il ventaglio, stando però attenti a non dare anche dei messaggi all'altro che ci sta guardando. Ma se invece siete più da ultima tecnologia e quindi niente ventaglio, esiste un ventilatore meraviglioso, secondo me, che è senza pale, cioè in realtà non è un ventilatore, è un acceleratore d'aria, ed è un oggetto molto strano perché è anche di design molto bello, ed è questo anello che avrà un diametro più o meno di 30 centimetri che sfrutta la tecnologia dell'aspirapolvere, quindi cattura l'aria da delle griglie che ha nel piedistallo sotto e poi la accelera e la diffonde attraverso questo anello, e funziona fino a 2 metri di distanza, quindi può essere un'alternativa ai ventilatori con le pale, una cosa molto tecnologica appunto, e l'alternativa al condizionatore, quindi l'acceleratore d'aria. Si chiama Dyson Air Multiplier, costa 250 euro, quindi vabbè, un prezzo forse che fa venire caldo, non so se c'è qualcosa che costa meno. Per esempio il caldo può essere anche un business. Per esempio l'anno scorso, mi sembra più o meno, in uno di quei negozi che si chiamano temporary shop, che ci sono nelle città, quei negozi che si aprono a tempo e quindi sono aperti magari solo per un mese, due mesi, appunto il tempo forse di arricchirsi, non lo so, queste persone a Milano hanno avuto un'idea incredibile, secondo me, relativamente al caldo. Sono comparse queste magliettine, delle t-shirt molto, molto normali, molto, molto semplici, di vari colori, di cotone, chiaramente cotone, rigorosamente di cotone, perché stiamo parlando appunto di caldo e di estate, e c'era una scritta su queste t-shirt, e la scritta diceva fa caldo, chiedo scusa a tutti gli Aldo agli ascolto, però era una cosa secondo me molto divertente. Mi raccontavano che anche in Spagna, per esempio, uno dei souvenir più venduti al sud della Spagna sono queste magliette con scritto coe che calò, che è un modo di dire insomma caspita che caldo significa. Comunque il caldo e le tecniche di sopravvivenza, oggi si parla di questo. Arrivano sempre i vostri sms con i vostri gradi. Andrea da Udine, 28 gradi. A Padova l'abbiamo già detto, 27 gradi. Luciano, Ferrara, 28 da Marianna. Direi che lo stivale in fondo è più o meno caldo, in un certo senso. Ah, mi dicono che c'è il traffico. Ci fermiamo un attimo e ci troviamo qua tra poco. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi stiamo parlando di caldo, e io vi dicevo che sono qua con una sciarpa in ufficio perché devo fare i conti anche con l'aria condizionata. Ho chiesto a voi di darmi le vostre temperature. Prima ha chiamato un ascoltatore chiedendo che cosa poteva fare per andare a Mosca e i problemi che ci sono a Mosca. Arrivano dei messaggi chiaramente che mi dicono: a Mosca ci sono più di 30 gradi adesso. Certo, a Mosca ci sono più di 30 gradi adesso. Un altro, sempre lo stesso, identico messaggio: attenzione, in Russia ci sono 33 gradi. Benissimo, in Russia fa molto caldo, quindi bisogna avere delle tecniche di sopravvivenza al di là appunto di quello che sta succedendo. Comunque, per l'ascoltatore di prima, il sito di cui parlavo era www.viaggiaresicuri.it per avere informazioni, quindi se ci si può andare in tutta tranquillità oppure no. Ma noi stiamo parlando appunto delle tecniche di sopravvivenza al caldo, e voi come lo affrontate? Abbiamo parlato prima di ventagli, abbiamo parlato di ventilatori, di condizionatori, ma anche un buon gelato può aiutare. Noi abbiamo cercato di capire come se la passa adesso una gelataia in questo periodo. Greta Belladelli, ciao Greta. Ciao. Ciao Greta, come stai? Bene, bene, grazie. Bene, allora tu sei una gelataia, giusto? Sì, okay. Io sono la gelataia, mio marito è gelataio. Gelatai, perfetto. E quindi tu sai che quando sia caldo, almeno di solito, un bel gelato può risolvere la situazione. Certo, ci sta sempre bene. Ci sta sempre bene. Ecco, per voi in estate, per esempio, aumentano, credo, considerevolmente il numero di gelati che vengono venduti? Allora, aumentano sicuramente perché la gente ha anche più voglia di star fuori, di uscire, visto il caldo. Mm-hmm. E aumenta anche molto l'orario perché, essendo appunto molto caldo durante il giorno, escono più verso la sera, però il consumo sicuramente aumenta. Certo, e voi avete anche un carrettino, sì, vero? Sì, ecco, sì, un carrettino del gelato. Perfetto, ma come vi è venuta l'idea di fare il carrettino? Ci è venuta questa idea perché per noi era fondamentale farci conoscere, far conoscere il nostro prodotto, e il modo migliore per andare incontro alla gente e farglielo proprio assaggiare, anziché far vedere semplicemente un volantino che pubblicizzava il nostro negozio, certo, era quello di utilizzare un carrettino che poi ricordava anche soprattutto insomma le persone che l'avevano vissuto, ovvio. Chiaro, i giovani un po' infatti. meno, i tempi di una volta. Sì, ma il carrettino poi, non so, quando fa molto caldo si affolla la gente intorno, cosa succede? Sono soprattutto bambini, famiglie, cosa vi succede a voi gelatai in giro col carrettino? Dipende da... dalle occasioni in cui ci troviamo, se sono fiere piuttosto che presenze magari prenotate, quindi per eventi, non so, come feste di compleanno, eccetera, eccetera, allora è un'altra cosa. Ah, aspetta un attimo, feste di compleanno, perché voi andate anche alle feste di compleanno? Sì, sì, feste di compleanno, ah, piuttosto che cerimonie. E quindi vi si prenota? Vi si prenota e voi arrivate? Ah. Certo, matrimoni in piena estate sono in giardini, in ville, sono spettacolari. Sì, sì, perché proprio hanno l'esigenza, durante quando c'è caldo c'è l'esigenza di mangiare qualcosa di fresco. E certo, e ci sono dei gusti che vanno per la maggiore, che ne so, tecnica di sopravvivenza, il gusto che ci può servire. I gusti più freschi, quindi quelli con la frutta sicuramente, sono quelli proprio che d'estate, almeno noi notiamo che ci sia proprio la maggior richiesta, frutta, yogurt, sono quelli proprio che richiedono di più, mentre durante gli altri periodi un gusto che va comunque sempre è la nocciola, certo, che ormai il è un classico must, che non può mancare, però i gusti più freschi. I gusti più freschi, e il tuo gusto preferito? Il mio gusto preferito, io vado un po' fuori dalle abitudini, perché è cioccolato e pistacchio in assoluto. Cioccolato e pistacchio, fantastico. Quindi tecnica di sopravvivenza, comunque mangiare un buon gelato, preferibilmente in estate che sia di frutta, mi sembra di capire, sì, giusto? Sì, anche perché, voglio dire, se è un gelato fatto bene, con frutta fresca, si utilizza almeno tra il 50%, addirittura anche il 60% di frutta, sicuramente è anche una buona alternativa, quindi non solo un'alternativa al caldo, ma anche una sana alternativa. Certo. Allora, ultima cosa e poi ci salutiamo. Ti ricordi la canzone di Battisti? Il carretto, sì, passava e quell'uomo... Ah, sì, certo, la canto continuamente, mio allora, marito. Perfetto. Sì, sì. Allora, fammi la strofa, dai. Lasciamoci no, così. No, no, ti prego, mi imbarazza un sacco. Però mi confermi che tuo marito la canta? Sì, sì, ovvio. Allora siete in linea, perfetto. Grazie mille, Greta. Grazie a te. Ciao. Ciao, buon estate. Chi se la sente di cantare per Greta l'inizio della canzone di Battisti? 800 24 00 24 o i vostri sms al 349 238 6666. Il carretto passava e quell'uomo gridava: gelato al cioccolato. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo, ti amo, ti amo. Tecniche di sopravvivenza, oggi si parla di caldo. Mi scrive Franco da Como: Morena, a me piace tanto il gelato d'inverno, sono strano, d'estate ne mangio meno. Gusto preferito, vaniglia aromatizzata al limone, baci. Arrivano un sacco di vostri messaggi. Invece Patrizia da Como sempre dice: la prima cosa è non dire che caldo, buona giornata, sono le vostre tecniche. Ma noi vogliamo parlare oggi anche con Rosa Maria da Livorno. Rosa Maria? Sì, sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì, io parlo da Livorno e appunto vorrei dare la mia testimonianza riguardo al caldo, che io e mio marito si lavora nelle stesse attività, lui soffre il caldo, io invece sono contentissima, me lo godo, sudo tanto, però per me il caldo è la vicinanza a Dio, il caldo è il sole, il caldo è la vita, mentre il buio, il freddo è la negazione di questo benessere. Certo. Ecco che io mi godo veramente questo caldo, anche se noi abbiamo due attività stagionali, quindi in estate si lavora di più che in inverno. Uh-huh. E per me comunque io sto bene quando è caldo, e anche se comunque io sento che è caldo e che mi fa sudare, però per me è un toccasana, certo, mentale, certo, e quindi non lo soffri? No, no, no, io sto bene, io dovrei vivere nel deserto perché io sto bene dove è caldo, anche se lavoro. Chiaro, chiaro, ma è anche questione di luce forse, perché i meteoropatici sì, di sì, solito, sì. Sì, è quello. Infatti io la sera alle 9 vedo che il sole sta andando via, nel senso che prima, un mese fa andava via alle 9:30, più tardi, sta sì, sul mare. Sì. E vedo che comincia la luce a andare via un pochino prima tutti i giorni. E dico, è già arrivato l'inverno. Per me ora è già arrivato l'inverno perché il sole sta cominciando a diminuire la sua luminosità già alle 9, mentre un mese fa era anche alle 9:30, certo, si vedeva sempre la luce. Ma quindi la tua tecnica di sopravvivenza è goderti questo caldo, godermi, e questa luce. Sì, sì, io sto bene al caldo, io me lo godo e conto i giorni che mi separano dal caldo. Quando arriva gennaio dico, tra poco sarà estate, quindi sarai contenta perché tra poco sarà estate. Certo. Mentre magari c'è anche sempre 3-4 mesi di... Però per me la luce e il caldo sono la vita. Bene, bene Rosa Maria, grazie mille per la tua testimonianza. Ciao, grazie, buona giornata. Arrivederci. Sì, il caldo ha mille sfaccettature, appunto ci sono i meteoropatici come Rosa Maria che hanno bisogno di avere più luce o insomma subiscono magari il problema dell'inverno quando si accorciano le giornate. Ma adesso arriviamo alle nostre tecniche di sopravvivenza. Portate sempre con voi un libro rilassante. Copertina morbida è meglio. Se non riuscite a distrarvi con la lettura, potete sempre usarlo come ventaglio. 2. Evitate di fare gli spiritosi se non lo siete, che le freddure fanno venire ancora più caldo. 3. A proposito, se avete in casa un bue o un asinello, magari in agosto, non teneteli nella camera da letto. 4. Tenete sempre l'asciugamano del bidet nel frigorifero. 5. Può servire anche a calmare i bollenti spiriti qualora ce ne fosse bisogno. Ecco, queste sono le nostre tecniche di sopravvivenza, sono sempre piuttosto leggere. Abbiamo sentito le vostre testimonianze invece che ci dicevano che cosa state facendo per uscire senza problemi dal caldo, anche se così tanto caldo ormai non fa più. Qualcuno ci dice addirittura via SMS al 349-238-6666, il caldo l'ha fatto a luglio, arrivate tardi. È vero, ma può sempre servire per l'anno prossimo, chi lo sa, insomma. Può essere di utile anche a chi magari sta per partire per andare in paesi molto caldi. Ma vediamo che cosa c'è da fare questa sera. Per esempio, ad Anzio, a Villa Adele, c'è il concerto di Giovanni Allevi. Per informazioni, il box office è 0773-414521. Mentre in provincia di Padova, a Ponte Longo, si terrà presso il Ponte della Paltana, in via Villa del Bosco, la grande aratura d'epoca. Dalle 16 alle 18.30 è l'ultimo giorno di una manifestazione che si chiama Festa in Isola, dove ci sono macchine e attrezzature d'epoca utilizzate in agricoltura, e quindi ci sarà la grande aratura d'epoca. Beh, siamo arrivati alla fine, sono le 10.57, quindi ringrazio Roberto Scaltritti in regia, che parte per le vacanze. Anzi, ci mancherà moltissimo. Laura Faggin e Vittoria Mussini in redazione. Ci vediamo domani per la prima delle puntate dedicate all'agosto in città. Buona giornata, ciao. Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione.